Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio, non a Piazza Affari come ho detto prima nel lancio del giornale radio, ovviamente circostanza che ha subito così creato un clima esilarante quest'oggi in redazione, ma me ne scuso, ovviamente attribuisco sempre insomma questa patata in bocca che mi capita spesso di avere al tempo, le condizioni del tempo che non sono assolutamente di mio gradimento in questo periodo, però oggi siamo a Salva Danaio, non siamo a Piazza Affari. Di cosa parliamo? Il tema, quantomeno sul tema ci avevo preso, lo avevo azzeccato. Parliamo della crisi globale che ha cambiato da molti punti di vista le abitudini degli italiani. Infatti, dopo anni di crescita a doppia cifra, anche il credito al consumo nel corso del 2008 ha subito una battuta d'arresto e per la verità cambiano le abitudini degli italiani, ma cambiano anche le abitudini di banche e finanziarie che stanno un po' allentando il credito, aumentano anche gli oneri su prestiti e finanziamenti, questo l'abbiamo visto soprattutto ieri parlando di mutui, perché per i nuovi finanziamenti abbiamo raccontato come gli spread siano di nuovo in corso di aumento e dunque si stanno rivedendo anche le politiche commerciali. È interessante monitorare il cambiamento della situazione, ma anche analizzare quella che potrebbe essere la tendenza per quest'anno. La crisi porterà i nuclei familiari ad indebitarsi di nuovo, ad indebitarsi di più, ad indebitarsi di meno e quale forme di prestito andranno per la maggiore. Tra l'altro partiremo da un dato che fa il punto sull'andamento del settore negli ultimi mesi, secondo le analisi diffuse dal CRIF, che è una delle principali società italiane a gestire informazioni creditizie. A partire dal giugno dello scorso anno le famiglie italiane, dicevamo, hanno iniziato a porsi in maniera più prudente davanti alla domanda di nuovi finanziamenti. Già nei primi 5 mesi dell'anno la domanda di nuovi prestiti era stata piatta, ma fra giugno e settembre si è assistito ad una vera e propria frenata di richieste con un calo di circa il 10%. E allora è il tema che commentiamo questa mattina, ovviamente come sempre grazie anche ai vostri interventi, se vorrete in diretta all'800 24 0024 oppure attraverso le vostre sollecitazioni con gli sms al 349 238 6666. Chi saranno i nostri ospiti di questa mattina? Li saluto subito. Egidio Marsico, amministratore delegato e direttore generale di Fiditalia, che è una delle principali società in Italia di credito al consumo, e lo abbiamo interpellato tra l'altro anche perché il gruppo ha avviato un'iniziativa per venire incontro alle famiglie in ritardo con la restituzione dei prestiti. Dottor Marsico, benvenuto. Buongiorno a lei. E grazie. Buon anno anche, se lo abbiamo già in collegamento, al professor Giulio Tagliavini, ordinario di intermediari finanziari all'Università di Parma, che invece ci aiuta spesso con un suo collega, il professor Gino Gandolfi, nell'esame delle tematiche legate all'educazione finanziaria. Tra l'altro, professor Tagliavini, buongiorno e buon anno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Se non ricordo male, lei è anche curatore di un blog dove il tema dell'indebitamento personale viene affrontato spesso. Sì, sì, ne abbiamo parlato in diverse occasioni. E questa mattina ci racconterà che cosa scopre anche nelle abitudini delle famiglie e se ci sono anche degli errori che si continuano a fare nonostante tanto di prestiti si sia parlato negli ultimi anni, se ci sono degli errori che si continuano a fare quando ci si indebita per le esigenze più disparate. Tra l'altro il tema delle esigenze che si sono modificate negli ultimi anni è un tema interessante, perché abbiamo visto come nell'ultimo anno, per esempio, questo ve lo raccontiamo tra un po' nella nostra scheda, ci sia stato un cambiamento anche proprio nel tipo di prestito che si sottoscrive. Sono diminuiti molto i prestiti finalizzati, quelli per esempio destinati all'acquisto dell'auto, del televisore, mentre sono aumentati i prestiti personali. Chissà che cosa, come va interpretata questa tendenza. Per cui un tema che stamattina affrontiamo di nuovo sicuramente a 360 gradi. Numero verde per i vostri interventi, ve l'ho ricordato, il numero per gli sms è lo stesso. Ritorniamo per un attimo in borsa. Vi avevo già detto che il quadro stamattina è piuttosto negativo, ma abbiamo avuto una serie di giornate piuttosto buone, un avvio d'anno molto buono per i mercati, per cui oggi le prese di beneficio ci stanno, erano anche attese. E il quadro è il seguente: abbiamo un calo di Parigi dell'1,66%, Francoforte lo stesso sta perdendo circa 1,5%, Londra perde l'1,16%, Milano l'1,28%, siamo in attesa della decisione della Banca d'Inghilterra sui tassi di interesse, dovremmo avere oggi una nuova riduzione del costo del denaro nel Regno Unito e probabilmente i tassi insomma potrebbero arrivare a livelli piuttosto bassi, anche se poi noi aspettiamo soprattutto nella riunione della Banca Centrale Europea il 15 gennaio per invece verificare a quanto ammonterà il taglio nell'Eurozona sui tassi. Titoli a Piazza Affari in evidenza: Luxottica più 2,32, Mondadori più 1,53, Pirelli più 1,16, Snam Rete Gas più 1,15, Fiat più 0,8, Impregilo più 0,8%. C'è un bel gruppo di titoli che invece perde più di 3 punti, sono Geox, Prysmian, A2A, Buzzi Unicem, meno 2,7 per Unicredit ed STM, meno 2,5 punti per Unipol, meno 2 per Fondiaria e Telecom. Euro su dollaro stamattina 1,3570, il petrolio è a $46 a Londra, a $42 a New York, era ritornato oltre 50 nei giorni scorsi, ieri ha avuto un calo molto forte a New York e stamattina ha ripreso leggermente quota, ma comunque siamo ritornati in media così. Diamo questo dato medio, $45 al barile. Lasciamo la borsa, lasciamo i mercati, andiamo invece al tema di questa mattina. Oggi affrontiamo il tema del credito al consumo. Dopo la forte crescita degli ultimi anni, il 2009 potrebbe essere l'anno all'insegna di una frenata consistente per prestiti e finanziamenti alle famiglie. Sentiamo perché. Uno dei settori che sta risentendo maggiormente della crisi economica è quello dei prestiti. Il credito a famiglie e imprese ha subito un brusco rallentamento negli ultimi mesi e promette un'ulteriore frenata nel corso del 2009. Se da una parte risente infatti della generale contrazione dei consumi, che porta quindi ad una minore richiesta di finanziamenti, dall'altra sono proprio gli istituti di credito ad aver operato già da qualche tempo un irrigidimento nelle erogazioni. Secondo i dati della Banca d'Italia, le banche hanno ristretto i criteri utilizzati per l'approvazione dei finanziamenti, in particolare accorciando le scadenze di restituzione e utilizzando clausole contrattuali volte al contenimento del rischio. Un orientamento al credito responsabile era stato del resto sollecitato dalle istituzioni proprio in conseguenza di un aumento delle sofferenze sui prestiti. Nella pratica, le più penalizzate sono le imprese, che lamentano una vera e propria stretta creditizia. Per quanto riguarda le famiglie, la restrizione già emersa sui mutui si sta estendendo anche al credito al consumo. Gli italiani restano comunque tra i popoli meno indebitati, nel confronto con Stati Uniti e resto d'Europa, e la crisi ha certamente influito sul minore ricorso al debito di questi ultimi mesi. Il picco negativo è stato registrato tra giugno e settembre, quando la domanda di prestiti è calata del 10% rispetto allo stesso periodo del 2007. Nonostante tutto, sul fronte dei tassi applicati, giungono buone notizie. Nell'ultimo triennio, i prestiti personali fino a 5.000 euro hanno beneficiato di un calo del 2,79% e quelli di importo superiore una riduzione dell'1,56%. C'è da dire inoltre che, a differenza dei mutui, i prestiti non sono soggetti all'aumento del costo del denaro, dato che la quasi totalità dei finanziamenti è erogato a tasso fisso. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, per i vostri messaggi. Invece potete utilizzare il numero per gli sms, il 349 238 6666. Egidio Marsico, amministratore delegato e direttore generale di Fiditalia. Abbiamo sentito il quadro generale che è stato descritto dall'ultimo rapporto Asso, Fincrif e Prometeia. Per quello che vi riguarda, come si è chiuso questo 2008, come un anno da dimenticare, soprattutto sotto quale luce si è aperto l'anno? Così ci racconta la vostra storia per dare anche un po', magari, se è possibile, qualche segnale generale per il settore. Beh, diciamo, anno da dimenticare direi no, anno sicuramente piuttosto complesso. E questa è già una buona notizia. Anno piuttosto complesso e sfidante, impegnativo, questo sì, e per quanto ci riguarda diciamo che la crescita di Fiditalia è una crescita allineata a quella del mercato, perché ancora nel 2008 parliamo di crescita in termini generali tra meno gennaio, intensa rispetto agli anni precedenti, però esattamente meno intensa degli anni precedenti, quindi siamo a un livello di circa 1,3 per il momento fino a novembre per quanto attiene Fiditalia, e a 1,1 del mercato. È evidente, come avete ben spiegato nella scheda, che il rallentamento, essendo il nostro un settore poi anche prociclico, il rallentamento, innanzitutto la crisi finanziaria e le conseguenze poi sull'economia reale, e quindi il rallentamento a livello proprio di anche di recessivo di PIL comporterà e porterà un rallentamento anche nella domanda di prestiti. Questo è un fatto, e già stiamo assistendo a questa tendenza negli ultimi mesi dell'anno, in particolare ottobre e novembre, si hanno presentato dei segni negativi. Ora, azzardare delle previsioni in questo contesto è piuttosto, come posso dire, complesso, perché stiamo vivendo sicuramente un momento molto particolare, sia finanziario che economico. Comunque io ritengo che anche per il primo semestre del 2009 ci si debba abituare a fare i conti con qualche segno meno anziché che con qualche segno più, insomma. Ecco, lei diceva prima, non è stato tutto sommato un anno da dimenticare il 2008, vedremo cosa succederà quest'anno, però in ogni caso anche per voi è stato necessario affrontare in qualche maniera qualche effetto della crisi. Avete messo in piedi questa iniziativa per venire incontro alle famiglie in difficoltà con la riduzione della rata per quelle persone che non riuscivano ad onorare il proprio prestito, insomma. Ecco, concretamente in che cosa è consistita, soprattutto quante famiglie, anche per avere così proprio un quadro percentuale rispetto a tutti le famiglie che hanno in corso prestiti nel nostro paese, a quante famiglie siete dovuti venire incontro? Sì, quindi l'iniziativa è un'iniziativa che attiene al nostro orientamento, riteniamo, di affrontare il credito in modo appunto responsabile, come avete detto, dando dei supporti concreti alle famiglie e manifestando in modo concreto in determinati appunto momenti come far sì, far fronte a quelle che possono essere delle difficoltà appunto nei pagamenti, difficoltà che possono essere anche momentanee, quindi nel dare tranquillità. Quindi l'iniziativa prevede una ristrutturazione del debito residuo dei clienti che hanno una sofferenza, quindi sofferenza del versamento delle rate, con una previa comunicazione scritta. In sostanza viene ristrutturato il debito del cliente e viene abbassata la rata del 40%, ovviamente allungando il piano di rimborso. Mm-hmm. Questo sostanzialmente consente di avere dei vantaggi che sono riferibili al fatto che innanzitutto c'è un alleggerimento del peso della rata e quindi la rata diventa sostenibile, quindi sostanzialmente si va anche ad affrontare il tema del sovraindebitamento. Mm-hmm. E in secondo luogo la montata degli interessi che maturano come conseguenza dell'allungamento del piano è di norma inferiore a tutte le varie penali che ci sono nel momento in cui il cliente evidentemente che è costretto a pagare nel momento in cui è in ritardo di pagamento. Quindi diciamo che riteniamo che questa iniziativa, quindi questa ristrutturazione unitaria del debito, è un atto concreto che viene fatto da parte nostra nel venire incontro a quelle che sono le necessità specifiche oggi delle famiglie e delle famiglie che si trovano in ritardo momentaneo nei pagamenti delle rate. Ecco, c'è chi come voi, come in questo caso, fa una campagna, non dico pubblicitaria, comunque di comunicazione per rendere, per mettere a conoscenza certo l'opinione pubblica di iniziativa di questo tipo. Ci sono tante altre società che invece lo fanno, magari senza divulgarlo tanto. Detto questo, è stato necessario intraprendere un'iniziativa di questo tipo perché le difficoltà erano molte. Io lì volevo arrivare, dottor Marsico. No, le difficoltà, sicuramente oggi c'è una maggiore difficoltà da parte delle famiglie a far fronte ai propri impegni. Questo è un dato di fatto, insomma, e su questo bisogna vuol dire affrontare seriamente e concretamente il tema. È previsto per il 2009, ancorché non ci sia un allarme rischio nel settore del credito al consumo, però è previsto un aumento della rischiosità a livello di settore. E quindi voglio dire, l'intervento è proprio mirato nei confronti di coloro che intendono pagare ma in questo momento non possono sostenere una determinata rata, insomma. Perfetto. Quindi voglio dire, riguardo alla non mi sono dimenticato la sua domanda, non voglio una cifra precisa, ma proprio per capire, insomma, dire che questo strumento, questa iniziativa, noi l'abbiamo approcciata in modo, voglio dire, piuttosto soft. Abbiamo fatto dei test per capire anche qual era la risposta in termini, voglio dire, da parte del cliente, che è stata estremamente positiva, devo dire. Dopo aver fatto 2 o 3 mesi di test, siamo partiti in maniera più massiva con questo strumento e attualmente l'intervento è stato effettuato su un totale di 15.000 clienti. Non è... Beh, insomma, voglio dire, è una cifra piuttosto consistente. Infatti, che comunque ha anche una vocazione in qualche maniera, come abbiamo detto, preventiva, per fare in modo che questi nuclei familiari non si trovino in difficoltà ulteriori nei prossimi mesi. Professor Tagliavini, sì. Non mi sono dimenticata di lei, naturalmente ho voluto far raccontare a Marsi con l'esperienza di Fiditalia e considerarla un po' rappresentativa anche di quello che è il comportamento in questo momento delle istituzioni finanziarie e delle banche, molte delle quali stanno ristrutturando il debito delle famiglie italiane in difficoltà. Tra l'altro ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno chiedendo se è possibile accorpare vari finanziamenti con una stessa banca finanziaria. È possibile, c'è un nome di questa operazione, si chiama consolidamento del debito, però io non vorrei spenderlo, magari stamattina ci arriviamo per qualche minuto, però vorrei dedicare a questo tema la puntata di lunedì prossimo di Salvadanaio con la collaborazione del Sole 24 Ore, per cui se avrete pazienza entreremo maggiormente nel dettaglio di operazioni di questo tipo la prossima settimana. Tagliavini, alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, cosa suggerisce la fase storica che sta attraversando il credito al consumo nel nostro paese? Sono assolutamente d'accordo con l'analisi del dottor Massico. La situazione di difficoltà macroeconomica avrà conseguenze importanti anche sul settore del credito al consumo, quindi un rallentamento della domanda e un rallentamento dell'offerta di prestiti alle famiglie. Aggiungerei come consiglio ai consumatori di essere molto cauti nell'accensione di nuovi finanziamenti. Insomma, io aprirei nuove operazioni solamente in caso di assoluta necessità. L'iniziativa di allungamento della durata dei prestiti e di abbassamento della rata è assolutamente lodevole, è assolutamente necessario, molto importante. E conferma un po' questa esigenza di cautela, perché queste, non so, sono quasi operazioni di salvataggio, quasi operazioni di aiuto, e quindi quando il bagnino esce per salvare qualcheduno vuol dire che qualcheduno si è messo un po' in pericolo. Ecco, adesso le acque sono agitate e starei molto attento prima di creare nuove occasioni di pericolo, insomma. Ecco, questo è sicuramente un suggerimento utile, però è anche vero che non facciamo altro che preannunciare un 2009 difficile dal punto di vista dell'economia reale, professor Tagliavini, e non facciamo altro anche che raccontare di quante famiglie in questo momento vivano una situazione complicata, perché per esempio hanno magari il principale soggetto che porta reddito in famiglia in cassa integrazione, per cui per qualcuno tornare ad indebitarsi sarà una necessità. Una questione interessante da analizzare sarà anche quella di capire quanto costeranno questi prestiti in uno scenario in cui i tassi stanno aumentando, ma per le banche c'è un problema di liquidità in questo momento, per cui in realtà gli oneri sui prestiti forse potrebbero paradossalmente aumentare. Lei come la vede questa situazione? Poi sì, naturalmente chiedo anche a Marsico su questo. Il sostegno dei consumi attraverso una politica di finanziamento delle famiglie è una politica troppo pericolosa e suggerirei di stare lontano da una strada di questo genere. Per quanto riguarda il costo sta scendendo di questi finanziamenti, bisogna anche dire che sono operazioni di taglio abbastanza limitato, quindi il costo non è così importante come per un'operazione di mutuo. Sulle operazioni di maggiore consistenza, come l'eccezione del quinto dello stipendio, come i prestiti personali, che forse sono di taglio medio più alto, siamo attorno al 15%, insomma, e quindi è un costo importante. Però essendo poi operazioni non consistenti come un mutuo, non definiscono una difficoltà specifica. Mm-hmm. Tra l'altro con il professor Tagliavini mi sono fatta aiutare a fare un lavoro per il Sole 24 Ore in una pagina che è uscita, che è stata pubblicata domenica scorsa, su come cercare appunto di non indebitarsi eccessivamente nel corso di questo 2009 preannunciato come un anno difficile per tutti. Abbiamo steso 10 raccomandazioni per evitare una situazione di sovraindebitamento, poi magari professor Tagliavini, se ce la facciamo, le ribadiamo un po' tutte, quantomeno le principali. Prima di Marsico, subito un ascoltatore, è Teodoro da Sabaudia, perché stiamo parlando di persone in difficoltà che ha già un passato di debitore con magari un quadro familiare finanziario complicato. Teodoro, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie Teodoro. Senta, il problema è questo qui. Io svolgo attività di agente di commercio nel settore zootecnico. E poi ho fatto anche il grossista, sempre in questo settore, e sono andato in forti difficoltà, tra cui anche con protesti. Sì. Per quale motivo non si può aiutare persone protestate. Quando uno va in banca sembra che porti la peste. Cioè, è assurdo che si parla di aiuto alle aziende, aiuto alle imprese e poi gli si gira la spalle. Perché a fin dei conti, anche se una banca aiuta queste persone, come me e tanti altri, ce ne sono tanti signora, tanti, protestati, una banca che si mette a loro disposizione e a un tavolo e discutere delle risorse e delle soluzioni, penso sia anche una banca che acquista fiducia nei confronti della clientela, e non è che si chiude il riccio e non ne vuole più sapere nulla di quel cliente, di quella persona. A questo punto, se sono delle persone da emarginare, è meglio anche riconsegnare le tessere elettorali, tanto non siamo più rappresentati in Italia. Infatti, Teodoro, qua insomma ci spingiamo anche verso considerazioni di altra natura. Insomma, noi parliamo di persone in difficoltà, cerchiamo di suggerire a chi magari è in procinto di effettuare un finanziamento di fare bene i calcoli rispetto a quello che può spendere, rispetto a quello che sono le sue uscite e quant'altro. C'è che però si è trovato in una situazione anche per motivi di lavoro molto più complicata e dalle quali non riesce ad uscire. Allora, Marsico, magari se vuole partire con un commento rispetto al caso di Teodoro, siete proprio così sordi rispetto alle esigenze di chi ha un quadro molto precario dal punto di vista finanziario, ma vuole in ogni modo tentare di risollevarsi? Ma guardi, la ringrazio di questa domanda, perché ascoltando appunto il nostro ultimo interlocutore proprio comprendo la difficoltà che vi può essere in relazione a, diciamo così, determinate situazioni che si vengono a creare, di sovraindebitamento, di situazioni di proteste e quant'altro. E a tal proposito, voglio dire, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con Adiconsum per contrastare il fenomeno dell'insovraindebitamento e dell'usura, che quindi, voglio dire, è regolato da un fondo di prevenzione ex articolo 15 della legge 108. Quindi anche in questo modo siamo intervenuti, ritengo, in modo responsabile, dove la Adiconsum è una delle associazioni di consumatori accreditata dal Avevamo Tesoro. Fabio Piccolini ieri qua ai nostri microfoni per la questione dei mutui, sì. Accreditate dal Tesoro per voglio dire fare appunto istruire le domande, e abbiamo esteso questa iniziativa aprendo un fondo di 5 milioni di euro destinato appunto a queste categorie di persone. E questo è un tema. Allora, questo mi consente anche di così dare una risposta anche, o quantomeno allargare un po' il tema affrontato dal professor Tagliavini, il quale mi consente un po' di dissentire dall'affermazione state lontani dal credito al consumo. Ecco, io non ce la fate, sì, infatti forse lei è stato molto sintetico, però siccome ho già capito che la riflessione è piuttosto ampia e lei ci tiene, siamo fuori tempo massimo per la prima parte di Salva Danaio, la rimandiamo alla seconda parte della discussione. Ovviamente Tagliavini prenderà appunti e poi risponderà a sua volta. Detto questo, magari a Teodoro diamo questo suggerimento di rivolgersi all'Associazione dei Consumatori per vedere se ha le condizioni per poter aderire al fondo antiusura. Poi magari al fondo antiusura o al fondo messo in piedi da Fiditalia insieme ad Adiconsum. Esattamente. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina siamo ritornati ad esplorare le tendenze del credito al consumo, prestiti personali, finanziamenti per le famiglie, lasciando da parte quest'oggi il mutuo, anche se poi in qualche maniera ce lo dobbiamo tirar dentro. Il tema è come sarà il 2009, alla luce anche della crisi economica che il nostro paese, come tutte le principali economie, sta vivendo. E poi c'è anche un'altra questione da analizzare. C'è stato un fenomeno che è cresciuto moltissimo a due cifre nel nostro paese, anche per colmare un ritardo rispetto ad altre economie. Adesso abbiamo una fase di ripensamento, anche perché molte famiglie stanno ripensando anche le proprie attitudini al consumo e forse stanno scegliendo in questo momento di far meno ricorso ai prestiti. In realtà un suggerimento netto in questa direzione è stato dato da uno dei nostri ospiti di questa mattina, il professor Giulio Tagliavini della Facoltà di Economia di Parma, che fra un po' risento, però Egidio Marsico di Fiditalia era rimasto un po' così scettico, no, rispetto a questo suggerimento molto molto chiaro. Se vuole, in ordine proprio al lavoro che faccio, insomma, direi che quantomeno deve tirare un po' d'acqua al suo mulino. Quindi non vorrei entrare in polemica con sono sicura che Tagliavini voleva dire: se non siamo sicuri di poter onorare i nostri impegni, non ci stiamo dentro con il reddito, stiamo lontani, così poi allora, ce lo facciamo dire. Il tema è questo: come approcciare al credito al consumo, a chi richiedere i prestiti e quale deve essere il ruolo delle società finanziarie, che appunto deve essere un ruolo estremamente responsabile soprattutto in questo momento. Allora, e quindi c'è un tema, pensi che nelle indagini che noi svolgiamo tramite appunto l'ASFI emerge che il credito al consumo svolge una funzione, vuol dire, di supporto al consumo proprio, quindi all'acquisto di beni e di servizi. Quindi diciamo che c'è una funzione, se vuole, anche, voglio dire, molto importante, soprattutto in momenti in cui dobbiamo affrontare le fasi recessive. E soprattutto emerge che tra gli utilizzatori del credito al consumo, se non vi fosse lo strumento del credito al consumo, la maggioranza rinuncerebbe all'acquisto, quindi più del 50% rinuncerebbe all'acquisto del bene e servizio. Quindi questo per dire. Ora, quindi qui il tema è uno strumento che sicuramente non deve essere demonizzato, ovviamente, deve essere approcciato, vuol dire, dal consumatore, dal richiedente, in modo consapevole, quindi rivolgendosi a istituzioni che vuol dire danno dal punto di vista dell'affidabilità, della serietà, delle garanzie. E in questo contesto evidentemente l'ASFI è garante, l'associazione di categorie, quindi il suggerimento che do ai consumatori è: rivolgetevi a società che quantomeno sono iscritte all'associazione, perché proprio l'associazione impone dei comportamenti etici di un certo tipo, e che quindi, voglio dire, in materia di trasparenza, in materia insomma di, voglio dire, quindi questo è, quindi il tema è come farlo, farlo in modo responsabile e cercare di andare a limitare, ad affrontare il tema del sovraindebitamento, che comunque in Italia non è che c'è un tema di sovraindebitamento elevato rispetto ad altri paesi più industrializzati, però bisogna approcciarlo con questo tema con estrema attenzione, con estrema serietà e con estrema responsabilità. Anche da parte, come diceva lei giustamente, delle istituzioni finanziarie. Noi abbiamo avuto a volte qua testimonianze da parte anche delle associazioni dei consumatori, che forse avranno anche magari la pecca di enfatizzare problematiche negative, però io per esempio ho uno stretto contatto con la Lega Consumatori, con l'avvocato Maria Stella Anastasi, che mi ha raccontato a questo stesso microfono che per esempio sta seguendo anche come legale una cliente che è partita con una carta revolving e non appena attivato questa con un reddito assolutamente normale gliene sono cominciate ad arrivare a casa una marea senza nessun tipo di controllo. Ovviamente una persona in difficoltà con problematiche anche personali molto serie non poteva che essere come dire portata all'utilizzo di tutte quante, poi come queste fossero alimentate è veramente un mistero per tutti. Tagliavini, fra un secondo vengo da lei. Giuseppe da Milano però lo stesso ha forse un commento da fare sull'erogazione dei prestiti. Giuseppe, lei che opinione ha? È una persona che si indebita molto, che sottoscrive finanziamenti con facilità o solamente per necessità? O mai non li ha mai fatti, che ne so. Giuseppe, buongiorno. Ma ne ho fatti e ne faccio ancora. Il mio intervento però è di un altro tipo. Io ho sentito molti appelli a noi consumatori, appelli alla cautela e così alla moderazione per il prossimo anno, per l'anno che è appena iniziato, per il 2009. Io questi appelli li raccolgo volentieri come consumatore, ma li voglio che anche le aziende che erogano i mutui, i finanziamenti, facciano tesoro degli stessi appelli. Cioè loro stesse devono essere più moderate, più attente a non illudere, a non dare false chimere a noi consumatori. Le dico che sono appena uscito da un centro commerciale, a rate avrei potuto comprarmi tutto. Ne sono uscito chiaramente abbagliato, ma non posso comprarmi tutto. Eh no, ma infatti questo, ecco, qui ritorniamo anche al tema della sua responsabilità personale, farà due conti, però voglio dire, sul mercato c'è anche chi le propone di poter magari soddisfare un suo desiderio, le dice: guardi, se lei vuole può soddisfare questo desiderio, c'è questa opportunità, lo può pagare a rate. Chiaramente poi lei i conti in famiglia li deve fare personalmente, Giuseppe, non trova? Certo, ma vedi, però lei dice comunque io sono tentato. Mere illusioni, perché non posso permettermi tutto. Eppure quel cartello, e tenete conto che c'è non solo il logo della catena di distribuzione, ma anche quello della finanziaria, che non dirò naturalmente, induceva a spendere comunque. Attenzione, moderati noi consumatori, d'accordo, ma anche voi, o operatori del credito al consumo. Moderazione e cautela. Giuseppe, la ringrazio per la sua testimonianza, perché giustamente mi stuzzicava questo intervento, perché Giuseppe si sente tentato dalle offerte. Marsico dice invece il credito al consumo è un'opportunità. Tagliavini, lei che può essere giudicato almeno da parte mia come un osservatorio super partes, visto che è un docente universitario, come lo dobbiamo leggere oggi? Ecco. Apprezzo molto l'intervento di Giuseppe, condivido l'intervento del dottor Massico, aggiungo una mia valutazione. Secondo me in un periodo di difficoltà bisogna essere assolutamente consapevoli di una buona ragione per indebitarsi. Ecco, non ci si può indebitare con quel filo di leggerezza che invece in altri periodi può benissimo essere tollerato. Qual è una buona ragione per indebitarsi, professor Tagliavini? Se uno si indebita in questo momento per andare in settimana bianca, mi sembra assolutamente un comportamento irresponsabile, però ecco, uso un termine un po' duro, però insomma, se invece l'obiettivo è importante, cioè che vuol dire l'auto o la moto che serve per andare al lavoro, oppure spese straordinarie che hanno un peso emotivo, l'investimento sui figli, insomma, poi ognuno ha i propri motivi importanti per sostenere la propria famiglia. Ecco, di fronte a queste cose prenderei qualche rischio anche in una situazione di mercato finanziario molto perturbato. Indebitarsi invece per cambiare il televisore non mi sembra il momento adatto, aspetterei qualche mese. Mm-hmm. Ecco, non voglio demonizzare assolutamente prestito per l'acquisto del televisore, però in questo momento sarei un po' più cauto. Ovviamente se invece uno ha disponibilità finanziarie e familiari importanti non cambierà la vita. No, certo, eppure, infatti. No, tra l'altro c'è anche, ha detto una cosa importante, professor Tagliavini, c'è anche tutta una sfera legata alla psicologia con cui ci si approccia appunto verso la lettura di questa fase. Ci sono alcuni ascoltatori, e qui racconto sempre questo episodio perché mi è rimasto molto impresso, che in realtà non hanno visto una grande modifica nelle proprie abitudini di spesa e condizioni reddituali, cioè, però hanno comunque paura della fase economica e dicono: allora, in virtù di questa tempesta di informazioni che noi continuiamo a ricevere sulla crisi finanziaria, stiamo rinviando anche i nostri acquisti perché chissà cosa potrà succedere. C'è un ascoltatore che ci raccontava: io ho il denaro per acquistare l'auto nuova di mia moglie ma non la compro perché ho paura di tutto quello che raccontate ogni giorno. Detto questo, però, forse non è tanto attinente alla tematica del credito al consumo, però è un fenomeno molto diffuso, perché i piazzali dei concessionari auto testimoniano molto bene questo fenomeno, sia che si possano pagare a rate le auto sia che si possano pagare in contanti. Senta, invece, siccome lei ci ha dato le sue raccomandazioni, le avevo annunciate già, qualcuna ce ne ha indicata, sono però raccomandazioni rivolte fondamentalmente ai consumatori. L'industria invece del credito al consumo, secondo lei, cosa deve fare in questo momento? Non ho suggerimenti aggiuntivi, vedo che ci sono comportamenti molto responsabili, ovviamente gli associati Assofin, gli operatori principali, hanno modalità sempre più attente di valutazione della sostenibilità del debito, quindi non ho suggerimenti particolari. Quindi li ritiene tutti responsabili, insomma, anche magari se qualche nucleo familiare si ritrova eccessivamente indebitato è colpa del nucleo familiare che ha fatto il passo più lungo della gamba, ma sicuramente dall'altra parte principale del cliente, che lui è il cliente che decide circa la propria valutazione. Riprendo un attimo l'osservazione di Teodoro di 10 minuti fa. Protestato. In effetti è inevitabile che una decisione di indebitamento sbagliata abbia conseguenze molto serie. Teodoro ci ha testimoniato queste difficoltà. Devo anche dire che l'effetto nel tempo del protesto in Italia è eccessivo, su questo ha perfettamente ragione, a porre rimedio un giorno o l'altro a questa situazione. Benissimo. Come al solito eravamo distratti, a microfoni spenti, con Marsico ci eravamo addirittura tolti le cuffie. Tindaro da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a Salvadanaio, Tindaro. Grazie. Niente, io praticamente mia figlia per un befana ha distrutto la macchina di mia moglie, quindi siamo costretti a comprare un'altra auto, usata ovviamente. Sono andato in banca perché mi servivano 4.000 euro, però con questa banca ho un residuo di un debito di 19.000 euro. Sì. Allora la banca mi ha prospettato di estinguere quello di 19.000 euro, farne uno di 23.000, mm-hmm. e quindi anche abbassare la rata. Sì. La rata, e però volevo sapere, per 23.000 euro mi hanno chiesto il TAEG è del 10,28, se era un TAEG giusto. Giusto. Comunque. Allora, tra l'altro Tindaro, questo è proprio un classico esempio di consolidamento del debito, forse un po' più semplice di molte altre operazioni che si possono fare, magari Marsico ci aiuta in questo senso. 23.000 euro per quanti anni, Tindaro? Tindaro lo abbiamo perso, però un TAEG del 10% forse non è tra quelli più alti, Marsico, vediamo qualcosa anche di peggio, almeno da quello che ci scrivono, diciamo, alcuni ascoltatori. Un prestito personale, non so che tipo di, nella fattispecie, nel caso singolo, che tipo di prestito si trattasse o si tratti, voglio dire, quindi nel caso del prestito personale, tutto sommato direi che accettabile. È accettabile. Non gli regala niente nessuno, però forse non è. Tagliavini, lei ci può dire qualcosa in questo senso? Mi sembra una condizione di mercato. Una condizione di mercato, no, perché stavo leggendo alcuni messaggi di alcuni ascoltatori che parlano addirittura di tassi, adesso ovviamente non conosco l'ammontare del prestito e né la durata, però addirittura vedo 19%, c'è un ascoltatore che addirittura ci scrive il 26% di interessi con una società, insomma vedo che forse qualche cifra è un po' più alta, poi magari dipende sempre anche dall'attore a cui ci si rivolge, Marsico. Esattamente, per questo che ripeto, vorrei risoffermarmi nuovamente sul tema affrontato dal professor Tagliavini, qui veramente concordo in pieno, sul discorso della sostenibilità del debito. Quindi l'intervento che la banca propone all'ascoltatore di fatto rientra, no, in un intervento di consolidamento e quindi di allungamento del piano, abbassamento della rata, quindi di sostenibilità della rata, perché questo è il tema, e dell'approccio responsabile che gli operatori devono avere, soprattutto in questo momento, perché queste sono due condizioni a mio avviso essenziali per poter dare effettivamente un servizio. Un approccio responsabile, Marsico, si traduce anche nel dire di no ad un cliente, nella rinuncia ad un cliente che non ha le condizioni finanziarie, reddituali per accedere ad un prestito. Ma certamente ma è facile per voi farlo? Dobbiamo farlo, non è facile, dobbiamo farlo assolutamente, anzi diciamo che le società finanziarie si dotano di sistemi di scoring, di sistemi di valutazione estremamente anche costosi se vuole, proprio per evitare il fenomeno del sovraindebitamento, perché non dimentichiamo che vuol dire, per una società finanziaria, un cliente che non è in grado di pagare, che quindi va in sofferenza, si tramuta esattamente in un costo, e quindi questo evidentemente è un fattore antieconomico, insomma, per la società finanziaria stessa. Quindi vuol dire, siamo i primi ad essere interessati in relazione al contenimento del costo che rappresenta il contenzioso, ma soprattutto perché se vogliamo svolgere in modo responsabile una funzione, un'attività che è quella appunto di erogare prestiti, di erogare soldi, lo dobbiamo fare, ripeto, in modo serio. Non è che ogni anno si possa replicare l'iniziativa di venire incontro ai clienti riducendo la rata, allungando i prestiti, no. Cioè, voglio dire, questa può essere come dire un'iniziativa che può andare bene per una fase problematica come questa, poi però è anche, non è vostro interesse ovviamente. Esattamente, e questo rientra nella fase di accettazione, insomma, no? Giustamente lei mi dice, ma è un cliente, si dovrà dire anche di no, ma assolutamente sì. Assolutamente sì, il problema è che quando diciamo di no poi veniamo tacciati di agevolare il credit grantio. Magari, certo, la persona a cui si dice di no è una persona come Teodoro che ha tutta voglia di ritornare magari sul mercato del lavoro e per problemi. Vabbè, comunque, sentiamo Marina da Roma, va. Marina. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io stavo riflettendo su quello che voi state dicendo e io ho dovuto dire no a mia figlia che domani compie 18 anni, perché sono 3 mesi che sto girando per cercare di farle una sesta adeguata, perché è una meta importante. Quando mi rivolgevo ai ristoranti per sapere i prezzi, appena sentivano 18 anni mi alzavano le tariffe e mi chiedevano fino a 4.500 euro, 5.000 euro. Allora io ho cercato di far capire a mia figlia che uno può festeggiare 18 anni anche offrendo una pizza agli amici, perché loro mi offrivano anche un finanziamento con dei tag. Il ristorante, il ristorante Marina? Il ristorante Marina, cioè per fare la festa a sua figlia le proponevano anche il finanziamento? Esatto, perché dicono che il diciottesimo è una meta importantissima, è come il matrimonio. E io ho risposto loro che anche un matrimonio, insomma, uno dovrebbe riflettere un momentino nelle spese, perché chiedi finanziamenti e poi dopo 6 mesi ti separi. Infatti, tra l'altro, Marina, guardi, mi è venuto in mente più volte in quest'ultimo anno in cui sul tema del credito al consumo siamo andati tante volte, di voler fare proprio una puntata dedicata alle coppie di fidanzati che si indebitano con prestiti enormi per sposarsi, quindi non solamente l'acquisto della casa e quindi il mutuo, ma poi c'è tutto anche il resto a cui non si vuole rinunciare e pur di averlo si ricorrono ai prestiti. Comunque Marina, faccio tanti auguri a sua figlia e anche noi ribadiamo questo concetto: la pizza va benissimo per festeggiare con tutte le sue amiche, ma non perché adesso non vogliamo far fare un prestito a Marsico e a Fiditalia, naturalmente, però qui è proprio anche una questione di educare questa ragazza a non voler tutto subito e soprattutto a non cominciare ad indebitarsi già a 18 anni, anche se in questo caso poi paga la mamma. Tagliavini, sui giovani ci sarebbe tanto da dire. Sì, è una domanda bellissima. Mi spiace per il disagio di Marina per la figlia, ovviamente. No, vabbè, comunque è impostato una bella chiacchierata con la figlia, quindi ci sta. Sì. È molto interessante il tema perché naturalmente permette di parlare del problema della necessità di quello che si viene a finanziare. Uno può giudicare necessaria la festa per i 18 anni e qualcuno può giudicare invece poco necessaria e sufficiente la pizza. L'altro tema è quello della percezione dei giovani. Io credo che i giovani siano molto più vulnerabili, diciamo così, rispetto alle persone, insomma, con qualche anno di esperienza in più, insomma, ecco, quindi la tentazione di risolvere il problema ricorrendo con poco autocontrollo a un finanziamento, ecco, questa possibilità, questo pericolo espone maggiormente i giovani poi a trovarsi in una situazione di difficoltà. Tra l'altro, mentre stavo facendo questa considerazione, mi è venuto in mente il mio primo acquisto a rate in assoluto che ho fatto, risale qualcosa come 11 anni fa, credo che sia stato il mio primo cellulare e l'ho comprato a rate. No, questo per dirlo anche agli ascoltatori che pensano che i giornalisti di Radio 24 vivano sulle nuvole, guadagnino milioni di euro all'anno e quindi non vivano di queste cose. Invece anche noi abbiamo il mutuo, anche noi facciamo la spesa, paghiamo le bollette, altro che. Luigi da Roma, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie Luigi. Il mio intervento fa testimoniare un mio cambio di atteggiamento che ho avuto nell'ultimo anno. Sì. Io, diciamo, non sono mai stato un amante del credito al consumo. Per motivi di lavoro utilizzo molto la carta di credito con degli importi discreti ogni mese. Le mie carte di credito le usavo anche per motivi privati. Premetto che non accetto pago bancomat, utilizzo soltanto il bancomat per prelievi in contante. Sì. Da quest'anno ho deciso, per rendermi conto realmente di quanto spendevo per motivi privati, quindi escludendo le spese per lavoro, di non utilizzare più la carta di credito nemmeno per le spese private. E realmente è cambiato, cioè mi sono accorto realmente di quanto andavo a spendere alla fine del mese, cosa che non mi accorgevo utilizzando soltanto il contante. Luigi, però questa cosa è una cosa che ho già uscita a Salvadanaio e a me suscita veramente molte perplessità, perché io capisco che con la carta di credito lei possa procrastinare il pagamento di 15 giorni, 20 giorni, ma che cosa le cambia? Voglio dire, non è un prestito che fa lunghissima scadenza, lei lo sa nel giro di 20 giorni, non si tiene per esempio da parte gli scontrini per avere un quadro chiaro di quello che spende, o la carta la usa così in maniera indiscriminata? Non è una critica la mia, è solamente per capire un po' la sua situazione. Ma guardi, la spesa quotidiana, diciamo i 70 euro di spesa o i 40 euro di benzina che uno mette ogni settimana, ogni 3-4 giorni, alla fine del mese, diciamo che quelli che uno spende li dimentica e poi li mette alla fine del mese, però arrivano tutti insieme. Certo. Quindi alla fine del mese fanno un discreto gruzzoletto. E per lei, insomma, psicologicamente funziona diversamente. Poi qui, insomma, si vedono anche le abitudini delle persone. Per me non è così. Io tengo da parte gli scontrini, so esattamente, per esempio, quanto mi arriva il 15 del mese, ma questo è un episodio che racconto sempre. Evidentemente non per tutti è facile mantenere questa abitudine. Un minuto e mezzo di tempo prima della conclusione. Tagliavini, 1, 2, 3 raccomandazioni finali per approcciarsi quest'anno al prestito con a ragion veduta. Ma nella serie dei consigli che abbiamo messo a punto domenica su Sole 24 Ore, direi che quello più importante è quello di fare molta attenzione, insomma, ecco, indebitarsi è un'operazione non da prendere a cuor leggero, insomma, da valutare attentamente. In questo momento di difficoltà bisogna procedere con una buona ragione per indebitarsi. Marzi, tutti sì. Gli altri sono un po' dettagli, ecco, tasso fisso, tasso variabile, rifinanziamento di vecchie operazioni, attenzione alla pubblicità che tende a farci vedere le cose troppo semplici. Grazie Giulio Tagliavini. Marzi, ovviamente 30 secondi anche a lei, dal punto di vista dell'industria, del credito al consumo. Dal punto di vista dell'industria e del credito al consumo, allora io francamente non mi scandalizzo dal fatto che, come diceva l'ascoltatore poc'anzi, si entra in un negozio di elettrodomestici e si può comprare tutto a rate. Questo attiene, voglio dire, al mercato, alle offerte che il mercato fa, anzi diciamo attiene al fatto che comunque viviamo una società evoluta che mette a disposizione anche questo strumento di pagamento in alternativa al contante, in alternativa ad altre cose. Il tema vero è la sostenibilità della rata, cioè vale a dire perché il cliente che, voglio dire, si indebita anche per acquistare un televisore, ma che però può sostenere anche questa rata, francamente attiene a una pianificazione sostanzialmente anche delle proprie entrate e delle proprie uscite. Quindi questo io ritengo che il nodo, il tema centrale sia l'attenzione che sia il cliente e sia le società finanziarie devono porre alla sostenibilità della rata, e quindi approcciando in modo, ripeto, responsabile per l'ennesima volta la questione. Grazie a Egidio Marzico, grazie anche per essere stati con noi. Siamo come al solito sempre in ritardo. Buona giornata a tutti.